giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Trieste, ieri di nuovo strade e locali allagati, Lignano sott'acqua, sotto accusa i sistemi di smaltimento acque. Arriva la nuova IMU regionale, da gennaio la gestione dell'imposta sugli immobili sarà trasferita al Friuli Venezia Giulia. Scuola in carenza d'organico, mancano insegnanti non di ruolo e anche personale tecnico, denunciano i sindacati. Industria e crisi internazionale, almeno 4.000 dipendenti a rischio cassa integrazione in regione. Risparmio energetico e domotica in fiera, Pordenone, le soluzioni per la casa che contiene i consumi. Armonizzare salute e alimentazione a Udine, progetto unico in Italia con CNR Università. Calcio Serie C, il Pordenone raggiunto in pieno recupero dalla Juve Next Gen allo stadio Teghil, finisce 1-1. 7:19 minuti di sabato 10 settembre, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, le temperature registrate alle 6. A Trieste 19 gradi e 5 decimi, mare poco mosso con temperatura di 24 gradi. A Udine 16 gradi e mezzo, a Gorizia 16, a Pordenone 15 gradi e 5 decimi. A Tolmezzo 14 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 10, a Tarvisio 9 gradi e 5 decimi, sul Piancavallo 8 gradi e 5 decimi, a Sappada 7 gradi, sul Monte Zoncolan 8 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 7 gradi, a Lignano 19 gradi e 5 decimi, 18 gradi a Grado, temperatura del mare 22 gradi e 5 decimi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana. Su tutta la regione sarà possibile qualche locale rovescio temporale, con maggiore probabilità su zona montana e fascia orientale. Non si esclude che localmente qualche temporale potrebbe essere anche forte. In due giorni il centro di Trieste è finito sott'acqua due volte a causa delle piogge abbondantissime, venti estremi destinati ad essere sempre più frequenti. Sentiamo in questo primo servizio anche le voci di chi ieri si è trovato di nuovo a fare i conti con gli allagamenti. Niente quiete dopo la tempesta, perché nei locali si è dovuto ripulire tutto, 25 mm di acqua in mezz'ora. In pochi minuti il livello dell'acqua si è alzato, inondando strade, scantinati e gli esercizi commerciali. Qua un po' le vede, un po' un casino, stiamo piano piano lavorando, stiamo perdendo clienti qua. I nostri due vasi che erano davanti all'hotel li ha portati via, e quindi io e la mia collega eravamo a riprenderci praticamente i vasi e i fiori, e su quattro piante ne abbiamo salvate tre. Si cerca di sorridere ricordando situazioni comiche, ma sono in tanti che stanno riflettendo sulle future emergenze causate da una concomitanza di fattori: il nubifragio, l'alta marea e, a detta di molti, l'inadeguatezza del sistema di smaltimento. Noi avevamo 4 centimetri in cucina. Oggi, con il riscaldamento globale, l'innalzamento dei mari, quanto arriverà? 8-9 centimetri? Quindi noi, nel nostro piccolo Trieste, dobbiamo trovare un modo per far sì che le fogne scarichino bene, che quando ci sono le alte maree la città sia al sicuro, quindi bisogna guardare al futuro. La rete fognaria triestina, che risale agli anni 30, fu progettata tenendo conto di un sistema di torrenti che continuano a scorrere sotto la città. Con la cementificazione, con l'aumento delle utenze, nel caso del ghetto delle attività in prevalenza di ristorazione, l'intero sistema di drenaggio urbano andrebbe rivalutato, perché a detta dei tecnici del comune il problema non si risolverebbe intervenendo solo sulla rete fognaria gestita da Cegas APS, società alla quale è già stato incaricato uno studio sui calcoli idraulici. Ecco l'analisi del comandante dei Vigili del Fuoco, impegnati in una trentina di interventi. Girolamo Bentivoglio, Fiandra. I sistemi di smaltimento magari sono stati realizzati, progettati e realizzati con dei calcoli statistici di pioggia, che oggi sono completamente smentiti da questi eventi eccezionali. Trieste, Vacciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Scene simili ieri a Lignano, qui dito puntato sulle idrovore, sulla manutenzione delle caditoie. Il sistema di smaltimento delle acque reflue è pronto per reggere l'urto della crisi climatica. Anche a Lignano Sabbiadoro è la regina delle domande. In un'ora, al mattino, è venuta giù poco meno della metà della pioggia che normalmente cade in tutto il mese di settembre. La zona di Pineta, intorno a Corso degli Alisei, tra le più colpite. È entrata acqua dappertutto, ha allagato la reception e l'abbiamo tirata via con le attrezzature che avevamo sotto mano. un fulmine ha fatto spegnere tutta la luce, è saltato un frullatore, la gente tutta impauriti qua, perché non potevano accedere alle macchine. Abbiamo cominciato a vedere l'acqua arrivare, impossibile fermarla, e ci ha allagato tutto. Qua sotto avevamo 1,5 metri, è entrata in cucina, è entrata nei magazzini. L'assessorato al turismo punta il dito contro le idrovore del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale e del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, ma i diretti interessati indicano che funzionano e hanno funzionato perfettamente. Il problema, denunciano sia il Consorzio di Bonifica che i gestori delle attività commerciali della zona, riguarda la manutenzione della rete di caditoie. L'acqua proprio non riusciva ad arrivare ai bacini da cui pompano le idrovore, tutti fuori città. Abbiamo aperto a novembre, speso soldi per fare un arredamento tutto in legno nuovo e adesso questa sorpresa qua. Speriamo che non ci siano danni alle strutture in legno, perché con l'acqua si può essere gonfiato, c'erano 15 cm d'acqua dentro. Le caritoie erano ostruite dagli aghi di pino che nessuno ha mai pulito in tutta l'estate. È una vergogna, perché non è la prima volta che capita questa cosa. Ogni paio di anni succede questo. La massa d'acqua, le fogne non accolgono l'acqua che viene giù in un momento. Era troppo acqua. L'ARPA indica che un evento simile ha un tempo di ritorno tra i 2 e i 5 anni. Se da un lato la rete di captazione è stata progettata per un tipo di piovosità diversa da quella attuale, indicano geologi addetti ai lavori, migliorare il deflusso delle acque consentirà in futuro quantomeno di mitigare il rischio idraulico. Lignano Sabbiadoro, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ai nastri di partenza l'anno scolastico 2022-2023, ma i vecchi problemi fanno ancora fatica a trovare una soluzione. Ieri le parti sociali hanno incontrato la sovrintendente scolastica regionale Daniela Beltrame per discutere della carenza del personale, da quello docente a quello ATA, cioè amministrativo, tecnico e ausiliario. Per conoscere gli esiti dell'incontro abbiamo raggiunto Adriano Zonta del direttivo regionale della CGIL. È emersa la situazione delle carenze di personale, praticamente non di ruolo, che sono 2541 cattedre che verranno coperte pian pianino con le operazioni che stanno facendo in questo momento le scuole e gli uffici scolastici regionali. In più è emerso la questione che molte scuole lamentano la carenza di personale ATA, nonostante la distribuzione che è stata fatta e anche posti in deroga di cui ci ha dato la direzione regionale, che dice 243 posti in deroga. Evidentemente non sono sufficienti, perché se le scuole continuano a chiedere personale ATA per aprire le scuole vuol dire che c'è una carenza di organico proprio strutturale. A che cosa serve l'organico ATA? L'organico ATA serve per la sicurezza delle scuole, per esempio per aprire le scuole per i collaboratori scolastici, ma per vigilare sulle uscite, per la sanificazione delle scuole. Gli amministrativi sono quelli che fanno funzionare la scuola, perché tutto passa per l'amministrazione. Quindi abbiamo chiesto alla direzione regionale la rendicontazione di quanto personale è stato distribuito in Friuli Venezia Giulia alle scuole in maniera generale. Secondo luogo, chiedere insieme al Ministero che dia organico in deroga, ci vogliono organici in deroga. Se pensiamo che l'organico Covid non c'è più quest'anno e già con l'organico Covid sia docenti che ATA eravamo in difficoltà, senza quell'organico non siamo in difficoltà, siamo a terra. Crisi internazionale ed economia che rallenta, sono sempre di più le aziende che aprono procedure di cassa integrazione. Fare una stima accurata ora è praticamente impossibile, ma sono almeno 4.000 i dipendenti dell'industria regionale che si potrebbero ritrovare in cassa integrazione a causa dei rincari delle bollette energetiche delle aziende o di altri problemi legati alla produzione. 600 alla Fantoni di Osoppo, quasi 800 in automotive a Tolmezzo, 900 in Electrolux a Porcia, 751 alla Pittini, sempre a Osoppo. Con diverse modalità e tempistiche tutti avranno un orario di lavoro ridotto e l'integrazione salariale coperta dallo Stato con lo strumento della CIG. E purtroppo non saranno le sole. Il caso Varzila a Trieste potrebbe portare a immediate conseguenze per almeno due aziende che lavorano nell'indotto. Numeri ridotti rispetto a quelli friulani, ma si parla di almeno 50 dipendenti ciascuna. È una reazione a catena in un tessuto produttivo come quello del Friuli Venezia Giulia, dove centinaia di imprese medio-piccole vivono delle commesse di chi sta sopra. Si spera siano situazioni temporanee, visto che non sono tutte legate al costo dell'energia. Spesso, anzi, come nel caso Electrolux, la causa è la mancanza di ordinativi. Tutto questo si somma alle crisi aziendali che si trascinano da anni. Flex a Trieste, in un incontro con i sindacati, ha confermato che 71 contratti di lavoro interinale non verranno rinnovati e che si sta cercando di accompagnare una sessantina di dipendenti all'uscita volontaria. Previsti due tavoli separati con i sindacati la prossima settimana. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Presentato in giunta regionale lo schema del disegno di legge relativo all'istituzione dell'imposta locale sugli immobili. Dal 1 gennaio del prossimo anno, infatti, nei comuni del Friuli Venezia Giulia, la nuova imposta locale sugli immobili sostituirà l'IMU, l'imposta municipale, in virtù dello statuto speciale e dell'autonomia in materia riconosciuta all'amministrazione regionale. La nuova legge regionale ha in parte rinviato la disciplina statale per evitare un impatto gestionale finanziario sui comuni. Sull'abitazione principale non vi saranno modifiche per i contribuenti, quindi non si pagherà alcuna tassa. Formalmente la prima casa verrà considerata esente, non esclusa, come previsto dall'attuale legge statale. Questo è stato spiegato in una nota della Regione, si riconduce alla volontà di non applicare l'imposta su un bene primario, riconoscendo in tal senso un diritto a tutti i cittadini. Quello che invece con la nuova norma muterà sono le aliquote applicabili alle diverse tipologie di immobili, che diventano tre: i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale, i fabbricati strumentali all'attività economica e le aree fabbricabili, prevista l'istituzione di una banca dati regionale. Passiamo alla politica. Ieri sera a Udine è intervenuta la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni ha scelto Friuli Doc per la sua unica tappa della campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia. La leader di Fratelli d'Italia ha passeggiato per le vie del centro di Udine fino ad arrivare in Piazza Castello per una cena con gli esponenti locali del partito. Attorno a lei una folla di simpatizzanti pronti a chiederle un selfie. Noi siamo in un momento molto complesso, ma questa nazione si può rialzare. Questa non è una nazione persa, è una nazione che ha disperato bisogno del suo sistema produttivo. Usciamo da una legislatura nella quale ci hanno detto che la povertà si abbatteva per decreto, la crescita si faceva con decreto, il lavoro si garantiva per decreto. Non è così. Il lavoro lo garantiscono le aziende con i loro lavoratori, la crescita la garantiscono le aziende con i loro lavoratori. Quello che deve fare lo Stato è non rompere le scatole. Reddito di cittadinanza? Va pulito. Meloni smentisce la narrazione di un partito ora con posizioni più moderate, per esempio su conti pubblici e politica estera. Io non so cosa intendiate per moderazione sul tema dei conti pubblici. Ho sempre detto la stessa cosa, e cioè che il punto non è i soldi in deficit, è che cosa fai con i soldi in deficit. Sull'Ucraina avevo la stessa posizione 6 mesi fa, sulla materia di politica estera avevo la stessa posizione, sull'immigrazione ho le stesse posizioni, sui temi sensibili ho la stessa posizione, sull'economia ho la stessa posizione. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Presentazione dei candidati di Forza Italia questa mattina a Trieste, Palace Suite, via Dante 6A, alle 10.30. Ancora politica e sempre a Udine, ieri c'era anche il pentastellato Stefano Patuanelli, ministro dell'agricoltura nel governo Draghi. Ha giocato quasi in casa a Friuli Doc il triestino Stefano Patuanelli, candidato per il Senato tra le file del Movimento 5 Stelle. Nella loggia degli Onello ha presenziato ai premi Oscar Grindi Coldiretti in qualità di ministro dell'agricoltura. Il suo è uno dei 15 nomi scelti dal leader Giuseppe Conte, la cui rielezione è ritenuta importante per la formazione politica del Movimento. Patuanelli è stato capodelegazione all'interno del governo Draghi. Rielezione molto probabile data la candidatura in 3 diversi collegi come capolista in Friuli Venezia Giulia, Campania e Lazio. Uno dei provvedimenti più urgenti da realizzare riguarda il lavoro, secondo il pentastellato. Certamente il salario minimo legale è una delle cose da fare immediatamente in un momento in cui i cittadini perdono potere d'acquisto, in un momento in cui è difficile arrivare a fine mese. Garantire che non ci siano lavoratori pagati 2-3 euro lordi l'ora è fondamentale. Serve un salario minimo legale che imponga 9 euro come livello minimo di dignità per il lavoro. Il Movimento 5 Stelle corre in autonomia alle elezioni politiche del 25 settembre e non fa parte di coalizioni. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo a parlare di crisi energetica. Un aiuto per contenere le bollette di luce e gas può venire anche dalla domotica, protagonista a Pordenone insieme all'edilizia sostenibile. tutto su domotica, sostenibilità abitativa e e-mobility alla Fiera di Pordenone, dove in questi giorni ci sono Elettroexpo, la mostra mercato dell'elettrico ed elettronica, ed Ecocasa, l'esposizione delle soluzioni innovative dell'abitare. E che cosa si può chiedere oggi alla nostra abitazione intelligente se non di contribuire a contenere i consumi di energia? Sentiamo Andrea Pezzini, che lavora per un'azienda del settore. Abbiamo delle realtà molto interessanti del controllo delle temperature all'interno della casa in automatico. Non è più l'utente che interviene fisicamente sul contatto, quindi sulla decisione dell'alzata delle tapparelle, ma la casa si accorgerà dell'effetto del sole, dell'aumento della temperatura, e in automatico abbasserà le tapparelle. Anche la struttura della propria casa conta quando si parla di risparmio energetico. È il caso delle case ecologiche costruite interamente in legno, come spiega Claudia Cozzarin, imprenditrice del settore legnami. C'è l'intonaco esterno, che è a base cementizia, poi c'è la lana di roccia, possono esserci altri isolanti tipo la fibra di legno. Qua c'è la parete in legno, questa è la struttura portante della casa. E poi ci spostiamo alla parete, contro parete interna, dove vengono posizionati gli impianti. Anche qui ci sono di nuovo dei materiali isolanti. E poi ci sono strumenti che entreranno nella casa di tutti nei prossimi anni, come il plug-in per ricaricare l'auto elettrica. Christian Gubita, operatore del comparto dei sistemi di accumulo e ricarica di energia. Le colonnine sono di tipo intelligente, cioè sono in grado di modulare la potenza verso l'auto per evitare lo sganciarsi del contatore. Erogheranno un'energia modulata in funzione alle abitudini elettriche delle persone che vivono in quella casa. Pordenone, Lorenzo Gherlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E a proposito di energia, l'ENEA, l'Agenzia Nazionale per l'Energia, l'Ambiente e le Nuove Tecnologie, ha messo a punto un vademecum per risparmiare. Nel servizio da Roma del collega Loris Gai sentiremo Nicola Andrea Calabrese dell'ENEA. La bacchetta magica, sia chiaro, non ce l'ha nessuno. Contro i rincari di luce e gas, però, qualcosa si può fare. Piccoli accorgimenti, spesso, che però a fine mese possono fare la differenza. L'ENEA ha messo a punto un vademecum, obiettivo tentare di ridurre consumi e costi. Ingegnere, rincari delle bollette energetiche, ci dà un paio di consigli che possiamo seguire tutti? Tutti abbiamo lavatrice e lavastoviglie. Riduciamo i cicli della lavatrice, una ogni due giorni, lavastoviglie una al giorno. Se abbiamo lampadine, non le lasciamo accese e sostituiamo quella a incandescenza con lampadine a LED. Il grande protagonista dell'autunno in arrivo, e soprattutto dell'inverno, sarà però il riscaldamento. Per l'autunno abbassiamo la temperatura dell'ambiente a circa 19 gradi, non più i 20 gradi previsti. L'altro aspetto da considerare è che le condizioni climatiche del nostro paese non sono omogenee. A seconda della latitudine, della vicinanza al mare o alla montagna, cambiano le esigenze, anche in modo radicale. L'ENEA ha svolto uno studio più specifico. Pensando a chi vive nel nord Italia, un consiglio particolare? Finestre. Scremiamo le finestre durante le ore notturne, quindi chiudiamo tapparelle e persiane. Sempre sulle finestre, non apriamo nelle prime ore del mattino, ma nelle ore centrali della giornata per ricambiare l'aria negli ambienti. Per quanto riguarda la doccia, riduciamo il tempo a 5 minuti e la temperatura a 45 gradi della doccia. E in ultimo la caldaia. Se abitiamo in zone montane, privilegiamo caldaie a biocombustibile, quindi biomassa legnosa. La cronaca, ora furti seriali di gasolio, due arresti e una denuncia da parte dei carabinieri di Gradisca di Sonzo, a finire in carcere un 29enne e un 42enne di Lestizza. Un terzo uomo è stato denunciato a piede libero. Sono considerati responsabili di una dozzina di furti e del prelievo di 12.000 litri di gasolio, in particolare da macchine operatrici ed escavatori, parcheggiati all'interno di alcuni cantieri del gasdotto Trieste Mestre. Le indagini dell'operazione denominata Simon erano partite a marzo da un furto sul Greto del Torre a Pradamano. Altri furti sono stati poi messi a segno a Rivignano Teora, Pavia di Udine, Remanzacco, Cervignano e Aiello. La banda agiva principalmente nei fine settimana, quando i cantieri rimangono incustoditi. L'ammanco del combustibile veniva scoperto solo il lunedì mattina. Studiare il rapporto tra salute umana e produzione alimentare e promuovere un invecchiamento attivo sono i focus del progetto che coinvolge il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e l'Università di Udine. Realizzare progetti e attività finalizzati allo sviluppo armonico della nutrizione umana, mirati per contribuire a un invecchiamento in salute, è l'obiettivo che si sono dati il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università di Udine, che hanno dato vita a un'unità di ricerca congiunta specializzata nello studio multidisciplinare integrato delle relazioni tra alimentazione e salute. L'unità di ricerca è stata presentata oggi a Udine nell'auditorium del Dipartimento di Area Medica dell'Università, un progetto unico a livello nazionale, frutto di un accordo triennale tra i due enti. Roberto Pinton, rettore dell'Università di Udine. Una partnership che non c'era e che soprattutto è importante che si realizzerà attorno a un tema molto importante, che è quello dell'invecchiamento attivo, ma soprattutto dell'alimentazione e la salute, quindi con un approccio multidisciplinare che ormai per noi è diventato, non solo per noi, ma all'Università di Udine diciamo, è diventato strategico. Silvio Brusaferro, Presidente Istituto Superiore di Sanità. A livello di ricerca questo centro aumenterà le potenzialità, garantirà ulteriori opportunità per sviluppare ricerca proprio per comprendere meglio i meccanismi con cui si generano le patologie. Maria Chiara Carrozza, Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'obiettivo è quello di invecchiare meglio, di cambiare il nostro stile di vita e di utilizzare anche in modo terapeutico, affiancando altre terapie anche, la nutrizione in modo da amplificare per esempio l'effetto di altre terapie o da modulare insomma e la rallentare la degenerazione e quindi accompagnare quella che noi chiamiamo cronicità per esempio nell'invecchiamento con uno stile di vita appropriato a una qualità della vita migliore. Il progetto può già vantare collaborazioni con due istituzioni accademiche e scientifiche statunitense, il National Institute of Aging di Baltimora e l'Università dell'Indiana di Indianapolis e il Cancer Center dell'ospedale di Daping in Cina. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora allo sport, cominciamo dal calcio con la Serie C. Il Pordenone è raggiunto in pieno recupero dalla Juve Next Gen allo stadio Tegil, finisce 1-1 con gol nella ripresa di Pirrello per i neroverdi e poi di Kudrić per i bianconeri. Dopo 5 minuti di gara i neroverdi sfiorano il gol con Magnaghi che colpisce di testa la traversa, la Juve risponde con Ilinj e Iocolano. I minuti passano, i padroni di casa alzano la pressione, alla mezz'ora ancora una traversa per i padroni di casa ad opera di Candellone prima di una doppia occasione di Zammarini in chiusura di frazione. La ripresa è iniziata sulla falsa riga del primo tempo, il Pordenone si è fatto pericoloso ancora con Candellone che ha impegnato il portiere ospite al decimo. È stato il prologo al gol che è arrivato poco dopo grazie a un colpo di testa vincente di Pirrello sugli sviluppi di un calcio d'angolo. A questo punto c'è stata la reazione dei bianconeri che si sono fatti pericolosi con una conclusione prima di Sersanti e poi con Kudrić che ha sfiorato il bersaglio con una conclusione di sinistro di poco fuori. Poi, in pieno recupero, al 94esimo, ha siglato il gol del definitivo pari che ha portato le due squadre a quota 4 in classifica dopo due giornate. Oggi, sempre in Serie C, la Triestina affronterà in trasferta l'Arzignano Chiampo con inizio alle 17.30. Il basket, pallacanestro Trieste ha battuto in amichevole gli sloveni del Rogaška per 87-57 all'Allianz Dome, oggi alle 20 di nuovo in campo contro gli austriaci del Kapfenberg Bulls. A Udine ha vinto a Mantova nella prima fase di Supercoppa di A2 per 77-73. Oggi tocca a Cividale che giocherà sul parquet di Ferrara alle 20.30. E oggi è anche la giornata della semifinale dei mondiali di volley. L'Italia se la vedrà contro la Slovenia a Katowice in Polonia alle 21. Il match sarà trasmesso anche a Gorizia su Maxi Schermo in piazza Transalpina nell'ambito delle iniziative per Gorizia Nova Gorizia, capitale europea della cultura 2025. Per la pallamano, gara di campionato casalingua per la squadra La Bardata che affronterà Belluno Mondo Sport a Trieste al Palasport di Chiarbola alle 19. Motonautica, seconda tappa del campionato italiano, Formula Italia e trofeo FIM. Formula Italia sarà ospitata dal club del Gommone Trieste. Parteciperanno 30 ragazzi dagli 8 ai 14 anni dalle scuole motonautiche riconosciute dalla federazione a Trieste nella sede del club di Viale Miramare dalle 13.30. Per il rugby, ultima giornata per il campionato europeo Under 19, in programma Pasean di Prato alla Polisportiva dalle 12 con la partita Italia-Irlanda. Quindicesima edizione per la mostra floreale di piante e arredi per il verde nel giardino del Doge Manin, che quest'anno proporrà diversi incontri culturali dedicati all'acqua. Un centinaio gli espositori anche dall'estero, presenti nei due giorni della manifestazione, accessibile dalle 9 fino al tramonto. Negli stand si potranno ammirare tantissime specie vegetali come succulente, mediterranee, palustri, aromatiche, piante antiche, rare e insolite da interno e da esterno. In calendario oggi la testimonianza di Cristian Zoratto Mugnaio, titolare del mulino omonimo datato 1450, che si trova poco distante dalla villa di Passariano di Codroipo, l'unico dove lo stoccafisso viene battuto in maniera tradizionale. Appuntamento alle 16. Altro evento, quello in cui il giardiniere Ruggero Bosco discuterà sul futuro dei giardini domestici a fronte di problemi di irrigazione come quello avvenuto lo scorso agosto, dalle 14.30. Per i giovanissimi invece appuntamento con la caccia al tesoro alle 15.30 e alle 17. Alcuni appuntamenti con gli spettacoli: secondo concerto sinfonico della stagione del Verdi di Trieste, sul palco il direttore Enrico Calesso, veneto di formazione viennese, e il pluripremiato virtuoso del violino Giuseppe Gibboni, vincitore del premio Paganini 21, quarto italiano nella storia del prestigiosissimo concorso. Alle 18 in programma Beethoven, Paganini, Brahms. In apertura la 21esima edizione del Premio Trio di Trieste, lo storico concorso internazionale dedicato quest'anno all'esecuzione per due quartetto con pianoforte. Si parte alle 9.30 al Conservatorio Tartini con le prove obbligatorie. Sono 13 gli ensemble finalisti della 21esima edizione promossa dall'Associazione Chamber Music Trieste. Sarà il maestro Giuseppe Torre, primo contrabbasso solista dell'Orchestra della Filarmonica della Scala, a presiedere la giuria. Premio Lipitzer, seconda giornata di prove finali alle 16 nella sala del Trigovsky Dom di Corso Verdi. Saranno presentati dai rispettivi autori e curatori spartiti musicali e libri editi dall'Associazione Maestro Rodolfo Lipitzer Onlus, grazie al contributo del Ministero della Cultura. L'ambasciatore della cultura occitana Sergio Berardo, fromme dei Ludalfin, vincitore della Targa Tenco 2004, suonerà e canterà a Gemona del Friuli alle 18 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie in un concerto a ingresso gratuito intitolato Occitania Mon Amour e organizzato dall'Ecomuseo delle Acque e dal Comune. Questa sera alle 21 al Cinema Teatro Italia di Ponteba sarà proiettato il documentario storico Mission Mangart di Chris Anthony, è stato premiato a Cannes. Il film racconta della gara di sci sul Mangart il 3 giugno del 1945, cui parteciparono soldati americani, jugoslavi, cecoslovacchi e italiani per festeggiare la pace. È ai nastri di partenza la manifestazione Felix Celiporta, promossa da Noi Cultura e Turismo in collaborazione con Itineraria, viaggio inedito attraverso 14 chiese del Friuli, di cui molte sconosciute. Presentazione alle 10.30 all'Abbazia di Rosazzo. La manifestazione si terrà domenica 18 settembre e grazie alle parrocchie vedrà l'apertura straordinaria al pubblico delle chiese e delle cappelle votive nei comuni di Butrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariano, Mariacco e San Giovanni al Natisone. 7.45, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani che oggi trovate in edicola. L'apertura dell'edizione di Trieste del Piccolo propone il capocronaca interno con il caro bollette che dal prossimo anno provocherà l'aumento delle rette delle residenze per anziani. Fotonotizia per il nuovo re britannico Carlo III e poi la crisi Varsila con l'avanzamento al governo dell'iter per ostacolare la delocalizzazione con sanzioni più gravose a carico delle aziende straniere che intendono chiudere le filiali in Italia. Per la cronaca, il fulmine che ieri ha colpito la nave di collegamento con Grado e arrestato il servizio. E poi un reportage per la messa del trigesimo per il direttore del Piccolo Omar Monestier, che è stata officiata in Duomo dall'arcivescovo Crepaldi. Altro titolo, quello per l'intervista al direttore del CEST, il Centro Educazione Speciale Trieste, Onlus dedicata ai disabili, che oggi dà supporto a 80 persone. Aliquote ritoccate con la nuova IMU della Regione, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine. La Giunta, si legge, potrà abbassare le aliquote. presentata la bozza del disegno di legge che definisce il nuovo schema di tributi sugli immobili. A fianco una grande foto di Re Carlo III e ancora una foto per il nubifragio e gli allagamenti di ieri a Legnano. Nella colonna di cronaca i funerali della suora uccisa in Mozambico nell'attacco a una missione dove operano due sacerdoti friulani. Poi sanitari aggrediti, 100 segnalazioni in 4 mesi nella sola azienda sanitaria Friuli Centrale, riferisce lo sportello attivato dalla UIL. Sotto variante di rigolato previsti quasi 1000 espropri, prevalentemente di terreni boschivi. E ancora furti di carburante nei cantieri, in due agli arresti, ad aprire la cronaca cittadina Friuli Doc e gli Oscar Grindi col diretti. Sul Gazzettino, inserto del Friuli, anestesisti a noleggio, guerra in corsia, poi sono di nuovo a rischio le operazioni. Gli ospedali, si legge, si rivolgono alle cooperative con costi alle stelle. Poi scuole, 11 milioni per le bollette, il piano antisprechi, ne abbiamo parlato ieri nella fotonotizia Giorgia Meloni a Udine, di spalla Friuli Doc, slalom tra pioggia e sole e le aggressioni in ospedale, dalla UILM anche un corso di autodifesa per i sanitari. L'apertura del Piccolo di Gorizia propone il capo cronaca interno, che informa sul ripristino del servizio bus tra le due Gorizie con avvio lunedì 19 settembre. Nell'interno la notizia è corredata da un servizio con il progetto di ricorso a bus alimentati a idrogeno per i collegamenti nell'area del Collio. Da Monfalcone, la situazione del bacino di Panzano, dove le società nautiche e remiere sono in attesa di conoscere maggiori dettagli sul progetto per lo sbarco di gas naturale liquefatto alla banchina del Molino Casillo, che potrebbero quindi aumentare il traffico. La preoccupazione riguarda l'erosione delle sponde provocato dal moto ondoso, conseguente alle manovre dei rimorchiatori impiegati per l'ormeggio delle navi. Sull'altro piatto della bilancia, un'iniziativa di approvvigionamento energetico significativa per l'attività di Fincantieri. Da Grado l'approvazione entro l'anno del progetto delle nuove terme marine, a cui seguirà il lancio di bandi per i lavori che inizieranno il prossimo autunno. Sul Gazzettino di Pordenone, con il titolo sulla carenza di anestesisti, anche quello per un decesso dopo il vaccino, sulla morte di un 36enne di Casarsa, il GIP dispone ulteriori accertamenti. Accanto in un box il TAR che respinge i ricorsi del Comune sull'ampliamento di Cronospan. La fotonotizia per il calcio, Ramarri che beffa, pari nel recupero contro la Juve giovane. Di fianco il caso bollette care ai militari statunitensi di Aviano, un aumento di stipendio, 229 euro a settembre. Sul Messaggero Veneto in prima c'è il calcio, anche qui la beffa bianconera al Pordenone, la Juventus Next Gen che pareggia grazie al gol di un suo giocatore friulano. Nella colonna di cronaca il ritorno a scuola, due progetti contro il bullismo, se ne parla nella cronaca cittadina insieme alla prima campanella suonata ieri in anticipo per 2000 alunni a Pordenone e altri 750 nella pedemontana. Poi anche qui i funerali della suora morta in Africa, il caso criptovalute, pronto a farmi interrogare, dice Cristian Visentino, uno degli indagati nell'inchiesta NFT. Sotto San Vito il TAR respinge l'istanza per congelare l'iter di Cronospan. La questura di Pordenone ha predisposto per oggi un open day passaporti con apertura straordinaria dell'ufficio passaporti dalle 8.30 alle 12.30, rivolta a chi ha già ottenuto appuntamento prenotando sul portale e abbia necessità di viaggiare all'estero per comprovati motivi di salute, lavoro, studio o altro. Le richieste di rilascio urgente di passaporto dovranno essere inoltrate all'ufficio passaporti all'indirizzo di posta elettronica ammin.quest.pn@pecps.poliziadistato.it, allegando la documentazione relativa all'urgenza, la copia della ricevuta di appuntamento e la data di partenza. La questura provvederà a inviare conferma e orario di presentazione presso l'ufficio. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0434 238502. Nuova puntata del settimanale Estate, sentiamone un'anticipazione. Torna settimanale Estate, in questa puntata temporali intensi e fulmini in aumento nell'ultimo decennio, perché lo spiega un ricercatore dell'Istituto sul Clima del CNR di Bologna. Il mare a settembre, tutto esaurito sulle spiagge del Crotonese e in Riviera Romagnola a prolungare la stagione, ci sono le comitive di anziani. Ritorno alla campagna, una scelta sempre più diffusa tra i giovani. La Mostra del Cinema di Venezia pronta per il gran finale, lungo i 36 km del cammino turistico della Via Regia delle Calabrie. Un souvenir particolare, l'aria in scatola del paese di Capracotta. La stagione dei mirtilli sull'abetone. Dopo 10 anni è tornato a cantare in Italia, Riccardo Cocciante si racconta. Oggi nel settimanale Estate, 12:25, Rai 3. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali odierni: l'escursione storico-ambientale al Forte Montercole, al Monte Cumieli, con le fortificazioni del primo anteguerra e delle due guerre mondiali, che è stata organizzata dal gruppo storico Friuli Collinare con il Museo della Grande Guerra di Ragogna, avrà inizio a Spedaletto, al posteggio all'imbocco di Via del Lago alle 8:30. La festa dei funghi a Forni di Sopra, mercatini, chioschi, musica dal vivo, animazioni, oltre alle escursioni con guide micologiche, passeggiate naturalistiche alla scoperta dei sapori del bosco. Apertura dei chioschi alle 11:30. Intende appartenere a una sorta di museo diffuso il magazzino del caffè, in cui saranno allestite macchine, strumenti e stoviglie per tutte le fasi del caffè. Inaugurazione a Trieste, in via Manuzio, alle 15. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11:30 con la nona puntata di Parapunzi, rivista radiofonica in dialetto triestino realizzata nel 92. A mezzogiorno l'appuntamento con Bon Bon di e con Riccardo Cicconetti e Marco Fornasin, 30 minuti di umorismo. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio regionale, in regia Carlo Morello ed Eugenio Giuffrida. In redazione ha collaborato Laura Sarasini. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto. Ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.